GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12.15, ancora buona domenica, buona giornata da Giampaolo Mauro, Andrei Marusic. Scontri fra giovanissimi, gli episodi si moltiplicano nelle città, spesso accesi da provocazioni sui social. La loro diffusione allarma e a Pordenone, dopo l'episodio di ieri sera, se ne occuperà un vertice delle istituzioni. Tema in primo piano in questa edizione, nella quale parleremo anche di migrazioni, di musica e naturalmente di sport con basket e calcio. Tra poco l'Udinese scende in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Dunque, cronaca in apertura con gli scontri fra giovanissimi ieri a Pordenone, decine i ragazzi coinvolti in un episodio che ha generato allarme fra i testimoni e tra le autorità. Sentiamo. Non quello che tecnicamente si definisce una rissa, ma piuttosto assembramenti, urla e schiamazzi da parte di un gruppo di una cinquantina di ragazzi, molti dei quali minorenni e probabilmente arrivati da fuori Pordenone. Sono le prime ricostruzioni da parte delle forze dell'ordine che indagano su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra il centro direzionale di Pordenone, via Mazzini, e la stazione ferroviaria. Tutto sarebbe partito da una ragazzina in stato di alterazione, per la quale uno steward urbano ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Di lì la creazione di un assembramento spontaneo e dei successivi disordini. Nessun ferito refertato, nonostante le macchie di sangue rinvenute nel sottopassaggio che conduce al parcheggio Candiani e una testimonianza che parla di un coltello. Intanto il prefetto Michele Lastella ha convocato per la prossima settimana un comitato per l'ordine e la sicurezza. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'agricoltura celebra la festa del ringraziamento, la manifestazione principale di Coldiretti si svolge a Pordenone, dove questa mattina i mezzi agricoli si sono radunati sul piazzale della chiesa del Sacro Cuore. Dopo la messa, a mezzogiorno è partita la sfilata attraverso le vie del quartiere. Tra le manifestazioni della festa del ringraziamento rientra anche Formaggio e Dintorni, che sta animando Gemona. Si tratta della 24esima edizione per questa rassegna, tra le più gettonate dell'autunno. Migliaia i visitatori presenti. I temi della sanità, le liste d'attesa per poter accedere ai servizi sanitari nella nostra regione presentano molto spesso ritardi che obbligano le persone a rivolgersi al privato o addirittura a non proseguire con indagini cliniche, ritardando così diagnosi e cure anche in presenza di patologie già conclamate. Alla luce di questa situazione, l'Associazione Diritti del Malato ha organizzato a Udine un incontro per approfondire il nuovo regolamento sulle liste d'attesa emanato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Di recente sono emerse difficoltà riscontrate sia dai cittadini sia dai medici di medicina generale nel trovare procedure chiare e comprensibili per la tutela del diritto di garanzia dei tempi massimi di attesa. Frequenti inoltre i disagi a carico degli utenti per il fatto di dover effettuare esami diagnostici in strutture lontane dalla propria residenza. A Trieste da domani una serie di incontri sui fenomeni migratori organizzati da diverse realtà in gran parte attive sul territorio. Anticipiamo alcune delle tematiche che saranno sviluppate. Respingimenti, rimpatri, rimesse, diritto d'asilo, CPR, il modello Albania, capire il fenomeno migratorio e la risposta che le nostre istituzioni danno è sempre più complicato. Intercetta questo bisogno di chiarezza il ciclo di 5 incontri che comincia domani a Trieste al Circolo della Stampa e aperto a tutti. L'organizza ICS, Ufficio per i Rifugiati, insieme all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, con la Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rossi. Provatine, articolo 21. Gianfranco Schiavone di ICS. Vuole offrire strumenti per leggere la realtà e per gestirla, non per rimuoverla o fare finta che la realtà non esista. E quindi è un percorso di formazione innanzitutto per comprendere cosa sta succedendo, che cosa probabilmente succederà, quali sono le dinamiche che cambiano la nostra società con le migrazioni internazionali, parlando sia dei temi più caldi come l'asilo, come l'arrivo dalla rotta balcanica, la cittadinanza, i minori, ma sempre con un taglio rigorosamente scientifico e di approfondimento. Nessuna polemica, nessuno dibattito, nessun talk show o cose di questo tipo. Già tutti prenotati gli 80 posti in presenza, si possono seguire gli incontri anche online su Zoom, già 250 gli iscritti, ma c'è ancora posto, basta inviare una mail a capirelemigrazioni@virgilio.it. Il primo incontro è domani alle 17. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 16 gradi e 5 decimi, Udine 17 e 5 decimi, Gorizia 17, Pordenone 16 gradi, Forni di Sopra 14 gradi, Tolmezzo 12 e 5 decimi, Piancavallo 12, Sappada 7 gradi e 5 decimi, Tarvisio 0 gradi, Monte Zoncolan 8, Monte Lusari 5 gradi, Grado 15 e 5 decimi, Lignano 15 gradi. Previsioni a cura dell'ARPA, oggi avremo cielo in genere sereno sulle zone orientali e sulla costa soffierà bora moderata, più sostenuta sul Golfo di Trieste, specie verso sera. Gli spettacoli con la musica a Sacile, il quartetto di Rachel Zee e Omar Hakim, ha aperto ieri sera la 20ª edizione del Volo del Jazz. Un progetto che fonde il jazz con elementi sonori che vanno dal rock al folk alla world music. Il nome scelto è Sensual e i protagonisti sono due musicisti che sanno suonare, e a livello assoluto, praticamente qualunque cosa. Al pianoforte Rachel Zee, nel suo curriculum il lavoro con Wayne Shorter, Stanley Clarke e Peter Gabriel. Alla batteria Omar Hakim, che vanta collaborazioni con la metà dell'universo musicale moderno e contemporaneo che conta. Fece epoca il suo disco con Sting a metà degli anni 80, per non parlare di Madonna, David Bowie o The Weather Report. Ad affiancarli al contrabbasso Jonathan Toscano, nome di punta del panorama jazz newyorkese e abituale compagno di strada, e come special guest il sassofono di Bendy Hobson, già con gli Steps Ahead. Un concerto, quello dello Zancanaro di Sacile, che inaugurava la 20ª edizione del Volo del Jazz. Prossima tappa sabato 16 novembre, quando arriverà Lady Blackbird, nuova star della scena americana. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Appuntamenti di oggi a Pordenone per il Festival di Musica Sacra. Il Duomo ospita alle 15.30 il concerto dell'Intende Voci Ensemble, che sotto la direzione di Mirko Guadagnini proporrà in anteprima il brano Ascolta Maria del compositore friulano Sebastiano Burelli. Nel programma anche brani di Bach e Barber. A Trieste, nella chiesa luterana di Largo Panfili, terzo appuntamento per il festival dedicato a Bach. Alle 17 in scena l'organista altoatesino Marian Polin. Sempre a Trieste, al Museo Sartori, alle 17 in gran parte dedicata a Gioacchino Rossini, la serata di Corde in Armonia con Piercarlo Sacco al violino ed Eugenio Della Chiara alla chitarra. A Conoglano di Cassacco, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, alle 18.30 un appuntamento della Fondazione Bon con il violino solista di Lucio Degani accompagnato dall'Alma String Ensemble. Nel programma alcune delle più note pagine di Vivaldi. Teatro amatoriale per la stagione dell'armonia al Teatro Verdi di Muggia, la compagnia Commedianti per Scherzo di San Cassiano di Livenza propone La Scappatella alle 17.30. E a Pasian di Prato l'Auditorium Venier alle 17.30 la filodrammatica L'Aiar porterà in scena la commedia Affairs di Cour, ingresso libero. Lo sport, tra poco, nell'anticipo della domenica di Serie A di calcio, si sfidano Atalanta e Udinese. I bergamaschi arrivano da 5 vittorie di fila in campionato, dove occupano la quarta piazza dietro a Napoli, Inter e Juventus. L'Udinese, invece, è reduce da 2 sconfitte, l'ultima la settimana scorsa contro la Juve. Fischio d'inizio a Bergamo alle 12.30. Telecronaca del match subito dopo il nostro GR. E ora il basket con la serata no di Trieste a Trento, che fa suo lo scontro al vertice e ridimensiona per il momento le ambizioni biancorosse. La squadra di Christian tira malissimo e tocca il minimo stagionale in fatto di punti segnati, 68 contro i 76 degli avversari. L'occasione di agganciare la vetta è persa. Al di là della rimonta sfiorata, Trieste perde nettamente a Trento contro l'imbattuta Dolomiti Energia, che di energia e di atletismo ne ha da vendere. Le due squadre giocano sostanzialmente la stessa pallacanestro, cambiano gli interpreti, ma pare di vedersi allo specchio. Ritmi folli, scelte istintive e ricorso al primo tiro disponibile. Strategia che in una giornata no delle stelle rosse, Valentine, finisce per premiare i padroni di casa. Dopo un inizio equilibrato, i ragazzi di Christian non trovano con continuità il canestro e sono costretti ad inseguire. Niang è un enigma. In attacco Trieste pasticce, segna solo 6 punti nel secondo periodo, di cui 5 con un buon Jeff Brooks. Il parziale di 23-6, con la difesa che fa acqua da tutte le parti, spedisce i biancorossi a meno 21 al riposo. Quando scivolano sotto di 24 a inizio ripresa sembra finita, e invece con Johnson e Brown i biancorossi pian piano si rimettono nelle condizioni di cercare di rientrare, con 10 punti da recuperare in altrettanti minuti grazie al contropiede di Yutov. La difesa nell'ultimo periodo è più efficiente, Valentine da segnare di vite dopo aver collezionato 1 su 8 da 3 ne segna 2 di fila che fanno sperare i triestini. Meno 4 che diventa meno 2 con 2 liberi di un Ross irriconoscibile, che infatti sfonda invece di fermarsi a ragionare, come vede chiaramente dalla sua postazione VIP, anche Jimbo Tamberi. Il tiro dalla distanza di Brown non entra, ma l'ultima difesa è buona e ci sarebbe ancora una chance, solo che Yutov commette un errore di passaggio da mini basket e non c'è più tempo per rimediare. 76-68 per Trento, con 21 punti di Ford per i padroni di casa, mentre il migliore per Trieste è Brooks. Ancora fuori invece Reyes, sempre in infermeria in questo inizio di stagione. Trieste, Andrea Sauli, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 l'Apo Udine sarà impegnata questo pomeriggio alle 18 a Brindisi, mentre sorride ancora Cividale, che batte 77-63 in rimonta in casa Rieti, che era a pari punti in classifica al secondo posto. Sotto nel primo tempo una ripresa da urlo regala la sesta vittoria di fila ai ragazzi di Pillastrini, Corredivo e Rota protagonisti, e la sesta vittoria consecutiva dei Ducali, che tornano in vetta per una notte. Sentiamo il commento del post partita di coach Stefano Pillastrini. Quando abbiamo capito che per accenderci individualmente, per avere grandi iniziative individuali, prima dobbiamo giocare insieme, dobbiamo passarci la palla, dobbiamo riuscire a essere tutti quanti dentro la partita è cambiata. Poi è ovvio che la continuità, la solidità ce l'ha dato l'aspetto difensivo. Da ricordare il volley in A1 femminile, nuovo impegno per la CDA Talmassons, che nel pomeriggio alle 17 sarà impegnata a Pinerolo contro la Eurospin, e impegno in trasferta anche per la Tinet Prate in A2 maschile alle 16 la sfida all'Abba Pineto Volley di Teramo. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis e Giuliano Pecorari. La prossima edizione alle 18.30, ora linea a Bergamo per Atalanta Udinese del massimo campionato di calcio. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata ancora. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.